Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle ore 21:30. Ma andiamo ora con quella che è la sigla di questa trasmissione. Bene, questo brano era la sigla di inizio trasmissione, ovvero Zardins Magnetics, che andrà avanti fino alle ore 21:30 qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. E questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Come già detto, andremo avanti fino alle ore 21:30. Siamo in diretta radiofonica e ora andiamo all'ascolto di questa band che abbiamo passato più volte. Loro sono gli sloveni Anaeroba dell'area di Lubiana. Unica testimonianza questo album, uscito nel 2010, anche se l'uscita ufficiale è avvenuta nel 2008, con un CD, di quelli proprio CDR, registrati a mo' di demo tape, ma rimasti così nell'underground del punk hardcore, anzi della narco punk, finché poi l'idea di alcune etichette a livello europeo hanno fatto uscire questo album, e noi ce li ascoltiamo, Anaeroba e il loro album dal titolo Over the Walls and Borders. We'll be right back. Back to my base. Struggle for life. Sadness in our hearts. We're fighting for it. Allora, una buona sera e un saluto a tutti e a tutte voi che siete in ascolto per questa puntata di giovedì 7 settembre 2013. Sono le 8, le 20 e 13 minuti, quindi siamo in diretta, come già detto da chi mi ha preceduto, su queste frequenze di Radio Onde Furlane di Udine che ci ospita, Zardins Magnetics. Allora, prima di cominciare con l'argomento che ci eravamo preparati per questa sera, io volevo dare solo la notizia che oggi si è svolta un presidio in solidarietà con i compagni e compagne colpiti dalle misure cautelari della compagnia della redazione di Bez Motivni, senza motivo, quindi c'è l'anarchico, e si è svolta a Trieste un presidio in solidarietà con distribuzione delle riviste, dei periodici, eccetera eccetera. Magari insomma riprenderemo questa cosa il prossimo giovedì. Inoltre è uscito sui social un aggiornamento su Cospito, su Alfredo Cospito, che sembrerebbe essere stato colpito da una sanzione disciplinare a Bancali, in carcere di Sassari, perché sarebbe preso una diffamazione, ecco, avrebbe diffamato il procuratore generale di Torino, che aveva sbloccato le foto dei suoi genitori, il divieto di tenere con sé le foto dei suoi genitori defunti, ma appunto questo provvedimento non è stato eseguito, è stato bloccato probabilmente, cioè, noi non sappiamo, comunque chi lo assiste, insomma il suo studio legale, avrebbe già presentato un'opposizione a questo provvedimento disciplinare. E il 14 settembre si terrà a Torino l'udienza per discutere della possibilità sulla possibilità di tenere in cella le foto dei genitori, mentre il 19 ottobre a Roma, sono le prossime scadenze, il solito Tribunale di Sorveglianza di Roma che si delibera insomma le decisioni sul 41 bis in tutta Italia, e si parlerà della richiesta di revoca per Alfredo Cospito. Allora, per presentare un attimo le letture dei testi che faremo stasera, e che consistono appunto nei testi pubblicati da questo secondo volume di un'opera che si chiama La critica radicale in Italia, ed è curata, insomma, realizzata da Nautilus di Torino. E i due tomi che compongono quest'opera si intitolano Organizzazione consiliare comuntismo 1971-74. Il primo volume contiene un lungo saggio, il secondo gran parte dei documenti realizzati da questi due gruppi, due insomma entità della teoria radicale, nei primi appunto nel periodo considerato. Prima di tuffarci in questi documenti, riprendo un attimo Luca, eravamo i risultati, diciamo, raggiunti nella precedente puntata dedicata ai fumontisti, ed eravamo arrivati più o meno al tra il 71 e il 72. Nel 1971 viene diciamo spiccato un mandato di cattura per Riccardo d'Este e altri, e Carlo Ventura in particolare, per l'assalto alla sede di Fronte Nazionale. Fronte Nazionale era una organizzazione neofascista capeggiata da Cuneo Valerio Borghese, ex capo degli assassini, insomma, della decima MAS. Loro appunto passano ai fatti, alle vie di fatto, assaltano e incendiano questa sede di Torino, e per questo appunto viene fatto un mandato di cattura per questi due compagni, che fanno perdere le loro tracce, si spostano insomma fuori dai paraggi di questa procura di Torino, forse all'epoca pretura. E allora, insieme alle altre componenti delle altre città, insomma, dove era presente questa tendenza, che erano Milano principalmente, Genova e anche Firenze, decidono di affittare un casolare nella zona di Pisa, precisamente Ponte Aegola, un piccolo paese. Per niente a meno, un casolare in disfacimento, dove si stabiliscono appunto questi compagni, non per mettere in piedi una di quelle che erano le comuni che allora andavano per la maggiore, ma un esperimento di vita appunto in comune, ma di sperimentazione immediata delle loro teorie, insomma, dei loro punti raggiunti a livello teorico. In questi mesi continuano volantinaggi e anche provocazioni varie, in particolare, ecco, interrompono una presentazione di un libro in Audi dedicato al carcere, dove era appunto chi si occupava di questa presentazione era Norberto Bobbio. Nel volantino appunto viene definito Norberto Bobbio, costituzionalista, un vecchio gufo. Poi successivamente, mesi dopo, viene fuori che Pietro Valpreda, che era ancora rinchiuso in attesa di probabilmente di giudizio, sicuramente scrivono questo slogan da prigioniero innocente a candidato deficiente, in quanto si era candidato appunto col Partito Radicale, perché appunto in quanto parlamentare avrebbe potuto essere scarcerato, ecco. Un altro volantino parlava di Feltrinelli, insomma viene ridicolizzato Gian Giacomo Feltrinelli, editore ma anche così militante dei GAP, di un gruppo di azione diretta comunista, e mentre stava collocando una carica su un traliccio esplode questa carica e rimane vittima di questo incidente, e loro lo ridicolizzano non appunto per essere stato vittima tecnica, diciamo, di questa azione, ma per tutto il suo discorso portato avanti neoresistenziale. Loro lo chiamano tupamarista, ecco, di prendere queste esperienze dell'America Latina e importarle in una realtà di industria, insomma, di industriale avanzata, quella che era l'Italia degli anni 70. Altre azioni vengono compiute a Genova. A Genova viene anche lì interrotta, ridicolizzata anche in maniera carnevalesca, viene quasi, ecco, sbeffeggiata una un corteo, insomma una sfilata di carri storici, di queste cose che fanno ancora oggi anche un po' in tutta Italia, con i costumi magari rinascimentali o medievali, fanno le parate di questi sbandieratori eccetera. Lì era una delle prime di queste iniziative che voleva appunto coprire la realtà che era invece la demolizione di un importante quartiere storico del centro di Genova, e loro appunto anche qui cercano di concretizzare quelle che erano le teorie sull'urbanesimo, insomma, come appunto come teoria, non teoria sociale, ma una delle nessun modo disciplina una modalità di vita, appunto, di presa di possesso dello spazio, presa, ecco, di risignificazione. Io adesso starei un po' zitto perché sono già 10 minuti che sto parlando, lasciamo un po' di musica. Just kinda scared. Eccoci di nuovo, già di nuovo in voce. E niente, quello che il passaggio, insomma, che volevo un po' delineare era questo, per cui si va dagli anni, quelli che sono della strategia della tensione, i primi 2-3 anni dopo il 69, dopo il 70, diciamo, e si passa a un altro tipo di clima, insomma, la cosa non viene capita immediatamente da tutti, però appunto col 74-75 si può dire che, ad esempio, l'esperienza sicuramente dei gruppi extraparlamentari è conclusa, praticamente, insomma, è finita, ma anche quella dei gruppi di questi compagni di cui stiamo parlando, perché mentre appunto lo Stato non è stato aspettato, non è che è fallita la strategia della tensione, quindi è in attesa, lo Stato ha aspettato, ha preparato la contromossa, che era quella, insomma, per cui si arriverà con la legge reale in particolare, cioè con una serie di provvedimenti, no, repressivi, appunto, a trasformare questi, che era un problema politico, semplicemente in un discorso di gestione repressiva. Quelli che rompono i coglioni vanno messi vanno neutralizzati, messi, ingabbiati, e chi si permette appunto di puntare il dito, addirittura di mettere in piedi un progetto di attacco allo Stato, si prende la responsabilità di dire che questo attacco è allo Stato democratico, alla democrazia. Quindi lo Stato si arrocca, coinvolgono appunto le forze di governo, coinvolgono pienamente in questo progetto anche l'opposizione, anche il Partito Comunista, e quindi tu curta appunto la difesa è immediatamente difesa dello Stato democratico, e poi si andrà verso il 77 con la liquidazione appunto di questa forma neoleninista dei gruppi di quelli di cui avevamo parlato la scorsa volta, completamente frantumati appunto da un'altra tensione che si era alla fine era insomma esplosa col 77, una tensione auto-organizzatrice di movimento, per poi appunto quella che sarà la parabola, sarà gli anni appunto dell'apparato d'emergenza dello Stato, dopo il sequestro Moro appunto ai primi 80, insomma gli anni del cinismo, dell'opportunismo e della paura, come li hanno definiti Balestrini e Moroni. Però noi adesso facciamo un passo indietro al 75, e in particolare al esattamente 20 aprile 1975, la prima pagina della Stampa di Torino dice: giornata di lutto a Milano, assaltata una sede del PSD dopo la violenza provocata dai fascisti. Si era nell'aprile rosso del 75, c'erano state una serie di manifestazioni ogni sabato praticamente nelle metropoli, ed si era arrivati insomma a scontri di piazza con la polizia, erano morti due compagni. E appunto dice questo a metà circa della prima pagina della Stampa, il 20 aprile 75, arrestate 23 persone, 17 appartengono, dichiara la polizia, all'estrema sinistra. Tra i catturati uno è ben noto, dice il movimento studentesco, per i suoi trascorsi ambigui. Allora, ci sono stati gravi incidenti. Giornata di lutto, scuole chiuse, fortunatamente non vi sono stati gravi incidenti, all'eccezione di un assalto stanotte da parte di un comando contro un'altra sezione del PSD con annesso circolo ricreativo. Sono state arrestate 23 persone, l'assalto è avvenuto alle 5:20 nella sezione Camillo Prampolini in via Mar Ionio 4. Chi non sa che cos'era il PSD, era uno dei partiti cosiddetti laici che sostenevano la Democrazia Cristiana, era praticamente il partito dei notabili, delle forze dell'ordine, di questa gente qua, e non a caso appunto nei primi 80, quando verrà fuori lo scandalo delle torture ai brigatisti, il capo di questi torturatori la farà franca, perché si candiderà parlamentare col PSD. Quattro uomini scesi da una Opel Kadett hanno divelto la seranda di una finestra, sono entrati, hanno versato sui mobili della benzina e l'hanno incendiata. Ecco come si è arrivati all'arresto di questi aggressori. Alle 4 due auto della polizia vedono in via Ripa Ticinese una 127 con 4 persone. A bordo vi sono una tanica con un paio di litri di benzina, alcune bombole di vernice spray. Mentre i 4 vengono identificati, dal portone ne escono altri 4. Sono scesi da una mansarda al terzo piano. La polizia tiene al magistrato l'autorizzazione a perquisirli e nel locale trova altre 5 persone con una tanica con 5 litri di benzina. Gli agenti restano appostati in prossimità del 33 della via, nel civico 33. Verso le 6 arriva la Kadett, che era già stata segnalata come macchina degli aggressori della sezione del PSD. A bordo vi sono Paolo Ranieri, 23 anni, da Trieste, Riccardo D'Este, 35 anni, pure da Trieste, eccetera eccetera. Sulla Kadett c'è anche una tanica vuota. Tutti e 17 vengono arrestati per associazione delinquere, i 4 da Kadett anche per incendio doloso e trasporto di materiale infiammabile. Poi segue questo paragrafo: la polizia afferma che questi 17 arresti sono tutti appartenente a sinistra extraparlamentare, anche se in seno a gruppi diversi, Riccardo d'Este si sa che ha frequentato per alcuni anni la facoltà di filosofia a Torino, dove ha appartenuto a un gruppo estremista di sinistra. Ne è poi uscito e ha fondato con altri il gruppo dei comontisti, che radunava teppisti e che aveva come slogan lotta criminale contro il capitale. I comontisti avevano aggredito anche i personaggi della sinistra parlamentare. Qualcuno insinua che il gruppo avesse contatti con la destra. 317, pure ex comontista, c'è anche Paolo Turetta, 20 anni. Allora, eccetera. Ah sì, e il movimento studentesco, cioè quello che era Capanna, quegli anni là, il movimento studentesco di Milano, si intende, che erano... Beh, basta vedere cos'è Capanna oggi, ecco, per capire. In un suo comunicato, con il quale condanna stasera l'attentato del PD per il suo significato provocatorio, afferma che la comprova dell'intenzione di screditare la lotta degli antifascisti milanesi, associando la giusta collera antifascista a fenomeni di tipo terroristico, è fornita dalla presenza fra gli arrestati di un personaggio ben noto a Milano e altrove per i suoi trascorsi ambigui, più volte denunciati a partire dal 68 dal movimento studentesco. E poi prosegue, cambia anche argomento. Allora, su questa roba grave, insomma, di calunnie continue, non solo i giornalacci come la Stampa di Torino, ma addirittura Lotta Continua intervenne, accusando, appunto calunniando questi compagni, per un'altra questione che era stato il rapimento del figlio dell'imprenditore Carrello. Anche lì, appunto, i comontisti fecero risposero, insomma, pubblicamente con un comunicato minaccioso che stasera non leggiamo, ma comunque per dire che questo piccolo gruppetto però ha comunque lasciato un segno profondo, una forte influenza nonostante tutto e negli anni, più di questi personaggi che come Sofri e come Capanna, che sappiamo tutti ormai sono in età avanzata, sono ottantenni, però insomma abbiamo visto la loro parabola. A proposito, scrive Paolo Ranieri. Allora, dice: la locuzione stessa con cui si designava il non inquadrato, l'isolato, cane sciolto, lasciava trasparire il fastidio schifato con cui si guardava a costoro. Parla di quegli anni. E per conseguenza, a chi pretendeva di ragionare con la propria testa e perciò agire scioltamente, liberamente, adottando le tecniche della guerriglia, la prima argomentazione contro i gruppi armati nascenti, in un'epoca in cui la necessità della violenza rivoluzionaria non era contestata praticamente da nessuno, infatti, fu ancora una volta quella di denunciarli come separati dalle masse, lontano dalle quali non poteva esistere salvezza. E adesso viene al fatto di cui abbiamo parlato. Con la medesima argomentazione, Tony Negri e la sua cricca rifiutarono ogni solidarietà pubblica e anche personale a quelli fra noi che erano stati arrestati nell'ambito delle giornate d'aprile 75 per aver appiccato il fuoco a una sede del PSD. La notte, in pochi, perché erano quattro gatti, giustamente, come un turisti, distinguendo da chi ne aveva devastata un'altra, distinguendo da chi ne aveva devastata un'altra di giorno sulla spinta del corteo di piazza, cioè la stessa identica cosa, ma nell'ambito di questi scontri di piazza, e lì appunto tutti a darsi solidarietà reciproca. Nel momento in cui appunto c'erano questi cosiddetti cani sciolti che erano isolati e prendevano d'assalto e compivano la stessa identica azione, ma di notte, perché diciamo più deboli, nessuno si è mosso per solidarizzare con tutti questi, con 20 persone arrestate. Ecco, ciò che procurava loro l'ebbrezza non era l'azione, ma il sentirsi parte di una fantomatica comunità. nel trovare una spettrale identità collettiva, ben simboleggiata dal passamontagna, che rendeva tutti identici, equivalenti, intercambiabili. Allora, poi un'altra considerazione: ciò che in tutti, cioè sempre nello stesso capitoletto, ciò che in tutti i cuori deve entrare in tutte le teste, ma anche viceversa. A chi manca il cuore, a chi la testa, e i dimidiati dell'una e dell'altra schiera faticano a parlarsi e a mettere in comune quel che rispettivamente avrebbero per procedere oltre. Invece di alzarci in piedi per dire la nostra, per lasciare traccia del nostro giudizio in pubblico, strisciamo come vermi, rassicurati del poter far credere ciò che ci fa comodo far credere, mentre magari nell'oscurità noi e Dio ci esprimiamo in direzione opposta, parlando della cabina elettorale. La democrazia rappresentativa ha come proprio risultato, e forse anche come obiettivo, quello di radicare il sospetto e il disprezzo fra gli uni e gli altri. E per concludere, una frase di Giordano Bruno: ti senti intelligente quanto più le tue convinzioni sono diffuse, non quanto più giuste. È stoltissimo credere per abitudine, è assurdo prendere per buona una tesi perché un gran numero di persone la giudica vera. Eccoci, quindi stiamo parlando, vi ricordo, di comuntismo, di questi testi pubblicati. Finalmente andiamo a vedere di cosa si tratta, di questa benedetta radicalità. Insomma, vi leggo questo testo che fu pubblicato su Acheronte nel 70, torniamo qualche passo indietro, un testo diciamo sembra fatto a tesi, ecco, sembra un testo di, non so, di qualche filosofo metafisico, ecco, del Rinascimento. La radicalità è la conseguenza teorica del rifiuto e il rifiuto pratico di ogni compromesso con il mondo esistente. Il rifiuto non è scelta volontaristica, ma assai più semplicemente strutturazione immediata dell'impossibilità della non rivolta. Vale a dire la necessità di rendere dinamica ogni marmoreità della vita pubblica, così come dialettica ogni gommosità quotidiana. Il rifiuto è la strategia imposta dalla tattica della dialettica della rivoluzione globale, ma ancora una volta tattica e strategia si unificano nella teoria della prassi e nella distruzione del compromesso antirivoluzionario. Il primo compromesso, che contiene in sé il germe di tutti gli altri, è la rassegnazione a accettare la separazione subendo i ruoli imposti. Questa rassegnazione determina la sfiducia nelle proprie assolute possibilità creative. La creatività rivoluzionaria come base dell'autentico sperimentato nasce dalla consapevolezza della critica totale delle ideologie, prime tra le altre quelle di cui ciascuno di noi è pregno. La critica della vita quotidiana e il suo stravolgimento teorico funziona da catalizzatrice delle possibilità creative dei singoli ed è già il primo passo per la lotta contro la rassegnazione e il suo logico corollario, la speranza, sia essa fondamento giudeo-cristiano o marxista-leninista. La speranza si basa sull'accettazione dichiarata implicita dell'impossibilità di essere già fin d'ora coerentemente rivoluzionari, di sfuggire dall'inizio della nostra critica alla morsa dell'ideologia e dell'alienazione. Virgolette, la rivoluzione è una cosa seria, slogan dei militanti di tutti i tipi, che contiene il concetto di questa impossibilità e pone la rivoluzione stessa e l'essere noi rivoluzionati come momento catartico indipendente dalla catarsi presente, realizzata nella teoria e nella critica. Rifiutare ogni speranza significa rifiutare contemporaneamente ogni pretesa impossibilità della rivoluzione. Il radicale, coerente, non può che scegliere la certezza come opposto diretto della categoria paralogica della speranza promessa. Comunque, dice, ma la certezza non deriva dall'immutabilità dei concetti della teoria marxiana, quindi dall'ineluttabilità della rivoluzione come impossibilità del capitale sociale, eccetera, eccetera, teorizzato, diciamo, in maniera volgarizzata, insomma, dai militanti così marxisti-leninisti di quell'epoca lì, bensì la coerenza della propria intolleranza e dalla capacità di socializzare l'intolleranza in tutte le forme in cui essa si pone. La certezza della rivoluzione discende dalla certezza dell'essere noi stessi rivoluzionari, vale a dire coerentemente radicali e irrinunciabilmente intolleranti. E io direi che qua, questo testo qua, possiamo fermarci qua. Poi c'era un altro brano che volevo leggervi, riguardava il carcere invece, che era anche quello centrale, no, nel discorso. Allora, questi sono, è sempre Acheronte, che appunto era questo ciclo stilato di qualche anno prima dell'esperienza di comuntismo. Il carcere è la materializzazione della legge in quanto istituzione pratica della sanzione punitiva contro i trasgressori. La legge in quanto potere ha due fasi: quella generale del ricatto minaccia nei confronti di tutti gli individui e quella esemplare dell'attuazione della minaccia attraverso il carcere al fine di conseguire la perpetuazione e la generalizzazione del ricatto sociale. Nessuna lotta contro il carcere è possibile se non è lotta contro la legge nella sua interezza, così come nessuna lotta contro la legge è possibile se non è del pari lotta contro la norma, l'ideologia e il consenso. La proposta di ristrutturazione del carcere non è altro che la proposta di adeguazione della legge alle nuove esigenze ideologiche e produttive della società presente. La proposta della distruzione del carcere deve essere contenuta invece in ogni proposta realmente rivoluzionaria e perciò stesso antilegale. Il carcere, in quanto minaccia, in quanto realtà, è già di per sé produttivo. È produttivo, poiché produce a livello ristretto direttamente e a livello sociale indirettamente il consenso e l'infelicità. La morte della fabbrica come entità separata dalla società è diventata soltanto la fabbrica della morte quotidiana. La società e la fabbrica si identificano nell'unità della produzione di merci. La produzione di consenso e di infelicità è diventata produzione di mezzi di produzione. Vuole dire, insomma, che il carcere si è conquistato nuova forza in questa, diciamo, società mercantile spettacolare. La distruzione del carcere si pone dunque come distruzione di uno dei centri fondamentali di produzione di ideologia e di sua trasmissione e consumo. E il lavoro ti ha condotto a odiare la 128. Ecco, queste erano appunto le premesse per arrivare appunto alla rivista Comuntismo per Ultima Internazionale, che contiene insomma un testo, cioè dei testi, diciamo, introduttivi, poi una specie di il brano che abbiamo letto settimane fa sulla legge sulla stampa, quella che obbliga a avere un direttore iscritto all'ordine dei giornalisti, e poi abbiamo un lungo panorama, diciamo, di storia anche delle esperienze consigliari, ecco, di quelle che erano i movimenti dei consigli tra le due guerre, con annesse critiche che non leggeremo. Invece io pensavo di leggere io pensavo di leggere, per concludere, insomma, questi simpatici volantini antiscolastici distribuiti sempre, siamo nel 72. Allora, sì, perché non abbiamo detto appunto che questi ciclo stilati, queste forme così espressive, cioè comunicative, avevano anche un apparato espressivo costituito da quelle che erano le pratiche dei situazionisti, diciamo delle avanguardie, ecco, di ribaltare, cioè di usare delle immagini, in particolare fumetti, e riempire appunto le nuvolette di testi invece che generavano spaesamento, ecco, perché non c'entravano niente col personaggio. Allora, c'è praticamente questa che è una, sono sei vignette, come si dice, dei fumetti. E prima c'è, descrivo adesso quello che vedo, sarebbe una specie di uomo d'affari con la cravatta e i basettoni, eccetera, e i capelli impomattati, che dice: tu a scuola devi andare, per un uomo diventare, Qui vien data educazione, disciplina e religione. Nella vita questo vale, tutto il resto è solo male. E punta l'indice. Poi ci sono due plausibilmente padre e madre della borghesia, ma non appunto capitani d'industria, dicono uno all'altra: a studiar ti manteniamo, tu sei nostro investimento, or tu sei un po' scontento, ma domani ne riparliamo. Avrà il popolo il potere solo quando avrà il sapere. Gramsci pure ce l'ha insegnato ed in Russia è dimostrato. Sì, no, non mi ricordavo, sono, siccome uno ha anche il copricapo, sono due, ecco, due militanti, cioè due genitori militanti. E c'è ancora un signore con la bombetta al sigaro, anche questo un padrone, ecco, un capitano d'industria. Il lavoro è il tuo futuro, ma affinché sia meno duro, orsi bravo da studente per poi essere dirigente. Dirigente, se ti va di contestare, fa allora, poi lo puoi fare, che sul posto di lavoro il tuo tempo varrà oro. Poi c'è Valentina di Crepax, anche lei dice la sua: se il tuo amor per me è sincero, or dimostralo davvero. Se mi vuoi tu conquistare, possedere e poi sposare, diventar devi qualcuno, se non studi sei nessuno. Ci sono finalmente due giovani, insomma, di quegli anni, un cappellone, lui anche lei, insomma, figli dei fiori. Tutte queste sono cazzate che i borghesi hanno inventate. Sol servendo gli operai se ne andranno tutti guai. Scuola, fabbrica, quartiere sono i centri del potere che le masse prenderanno se continue lotte ranno. Sì, scusatemi perché in corsivo, qualche volta scambio una lettera con l'altra. Ecco, l'ultima vignetta, ci sono un branco di pesci. In corteo ci raduniamo ed in coro poi cantiamo: viva viva il gran Lenin, Beria, Mao, nonché Stalin. Ultima battute, specie di Topolino e Pippo, siamo quelli delle origini, che si di uno all'altro: hai visto che roba? Butta merda su tutti e non c'è nemmeno una controproposta. Ho sentito dire che faranno un altro volantino a brevissima scadenza. Ma chi sono? Sono dei rivoluzionari organizzati che lottano per l'affermazione del comuntismo. Boh, staremo a vedere la prossima volta. Ecco, guarda lì, ce n'è uno che ne stava dicendo una delle sue. È l'ultima, questa è la vignetta, è una specie di, io non so, definisco un conte di Monte Cristo, che dice: siamo quasi ancora tra fasce, incapaci a dir parola, la ragione appena nasce e già parlano di scuola, una borsa si prepara, poi figliolo a scuola impara. Quanto dico non son folle e ve'l provo in un momento, tanti asili, tante scuole, non son forse un gran tormento? Non son forse una prigione di moderna invenzione? Là si ingabbia bellamente una turba di figliuoli che cantano allegramente, sembran merli e rosignoli. So però che merlo in gabbia canta spesso anche di rabbia. Conclusione, ciclo stilato per i cazzi nostri, corso Regina Margherita 24. Ecco, io direi che era così un assaggio di quelli che sono le proposte di questo gruppo, insomma, del movimento rivoluzionario in Italia, un gruppo eretico, appunto, si diceva anche prima, un gruppo così isolato, che però nonostante tutto ha lasciato una certa eredità, una certa influenza in profondo, e quindi speriamo di aver fatto cosa utile ritirandoli fuori in occasione di questo cofanetto qui uscito da Nautilus quest'anno. Un saluto per questa sera e alle prossime volte. myself and my brother get a screwed up my dress. Another bump on the road, the pathetic gate. Clutch on my toe, swallow my pain. And the rest in the bed on the bed, I still fear. Gotta find my way out of here. I break all my sins. I break, break, break, break. I write all my past. From between my hands, the outsiders on the screen. I break, break, break, break. It's only when I feel the breath of that building. No questions to ask, no answers to tell. Never again my years, never goes on waste. Like it wasn't worrying me, I never run away. No time is left for me. Standing in the middle of this dead end stream. Bene, teniamo in sottofondo questa band, loro sono i Cold Cops, band della zona di Bologna. Questo è l'ultimo loro album che si chiama Manifesto, For the Rebirth of the Worldwide Punk Scene, che è uscito l'anno scorso. E nulla, che altro dire, che magari ci ascoltiamo ancora un brano in sottofondo. E anzi, volevo anche ricordare che l'abbiamo ascoltati prima, anche tra così gli intramezzi dell'intervento, mentre in sottofondo durante tutto l'intervento abbiamo ascoltato l'album Ingresso Libero di Rino Gaetano, datato 1974, anzi proprio il suo primo album. E anzi devo anche dire che ho un po' barato, nel senso che ho fatto ascoltare più brani, insomma, perché dura solo 35 minuti quell'album. Vabbè, rimaniamo con Cold Cops. Bene, questi, come ho detto, erano i Cold Cops, band bolognese, dal loro album Manifesto for the Rebirth of the Worldwide Punk Scene, che è uscito nel 2022. Bene, ora invece passiamo all'ascolto di questa band della zona di Milano, anzi tra Milano e Saronno. e loro sono gli Echo. È uscito nel 2015 questo loro album che si chiama Orizzonte Divorami. We'll be right back. Bene, allora abbiamo ancora in sottofondo questa band, come vi ho detto, dell'area di Milano e Saronno, provincia, insomma, di quella zona lì. Mi viene il dubbio che sia zona di Varese, comunque vabbè, non perdiamoci. Questo è il loro album datato 2015, Orizzonte Divorami. Bene, loro erano gli Echo, band dell'area di Milano, questo era l'album Orizzonte Divorami, è uscito nel 2015. Ora passiamo invece all'ascolto di questa band austriaca, questo è il loro album, anzi l'unica loro uscita discografica, che è... anche questa uscita l'anno scorso, agli inizi del 2022, e loro sono i Fuck Sorry, e questo è il titolo, è It Shit. Fuck Sorry. Bene, siamo ancora all'ascolto di questa band che lasciamo in sottofondo, band austriaca esattamente di Vienna. Loro sono i Faxorri, come ho detto prima, unico loro album uscito nel proprio inizio 2022, ovvero l'anno scorso. Si chiama It Shit, e poi che altro dirvi, unica pecca che cioè, dico io, peccato il fatto che la band all'uscita dopo questo album si è sciolta, insomma potevano, insomma avevano prospettive secondo me molto molto buone, e rimaniamo insomma all'ascolto di questi Faxorri, ripeto, band austriaca di Vienna, che cantano sia in tedesco e anche in inglese. Abbiamo lasciato questi Faxorri, band austriaca, come già detto, album It Shit, uscito nel 2002, che io ho detto peccato che la band si è sciolta, ma forse c'è stato solo un rimessaggio di alcuni componenti della band. Comunque vabbè, stiamo attenti, staremo pronti a ripresentarvi questi Faxorri. Ora passiamo ad un'altra band. Loro sono di Trento, band che era nata, insomma, band che si è costituita in quel di Trento nel 15 anni fa, ed poi esattamente 10 anni fa, dopo un 7 pollici, ha fatto uscire il loro unico album. Ma noi invece ci ascoltiamo dei brani che sono così estrapolati da questo CD compilation che è datato 2012, e loro sono i Congegno. Le anime più oscure non sono quelle che scelgono di dimorare nell'inferno dell'abisso, ma quelle che scelgono di liberarsi dall'abisso e si aggirano silenziosamente tra noi. We'll be right back. Bene, su questo brano che tengo in sottofondo vi annuncio che questa trasmissione Tardis Magnetics che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dalle ore 20 alle 21.30 dagli studi di Radio Nefurlane Audio sta per terminare, e che quindi vi do dei contatti, oltre a ricordarvi che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste, e pertanto i nostri contatti, se volete scriverci posta elettronica intestando insomma la mail liberetutti@autistiche.org, oppure scrivendo direttamente ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Vi ricordo anche che questa trasmissione potete riascoltarla e anche tutte quelle dei giovedì scorsi nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, siamo giunti al termine di questa trasmissione, quindi l'appuntamento è per il prossimo giovedì. Vi saluto, salutiamo anche chi magari ci riascolta domani sulla web radio Radiazione dalle ore 17, e vi lascio con un ultimo brano, anzi proprio quasi il termine di questo brano, ma faremo andare uno successivo. Loro sono i Congegno, band di Trento, che è esistita alla fine del 2010-2013, quando ha fatto uscire il loro unico album. Bene, ciao a tutti e al prossimo giovedì. Aspetterai che lui venga a prenderti, a parte lui nessuna voce.